mielato profumo suffuso ancora qualcosa, presagio di sole. Fiocchi di lana, latte di mandorle amare, lento chiarore. Dolce di panna e spago di lana. Voce di gola, mi hai seminata di baci seppellita, poi mi hai profumata di sguardi rabbonita. Tra le tue dita di seta mi hai tradito, poi rigirata, raggirata, malamente rammendata. Niente non fa quasi niente. Niente non fa quasi niente, mi cucio da sola gli strappi e i raggiri. Affondarti. Tranquillamente ora. Posso affondarti ora. Con la lingua tra i denti mi hai seminata di baci e seppellita, poi mi hai profumata di sguardi e rabbonita. Tra le tue dita di seta mi hai tradito, girata malamente rammendata. Mi hai seminata di baci seppellita, poi mi hai profumata di sguardi rabbonita. Tra le tue dita di seta mi hai tradita, girata malamente rammendata. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Passate da 46 minuti, qualche minuto un po' in ritardo, ma era doveroso per lasciare lo spazio anche a sistemazione della sala e per emozionarci sempre di più, perché c'ho davanti una delle esponenti della musica italiana che è straordinaria, ma ne parleremo tra qualche istante. Questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente, come dico sempre io, preferita in questo preciso istante. Sono le 22.46, oggi è martedì 21, è estate, è arrivata l'estate, 21, è arrivata Patrizia, è arrivata l'estate. È 21 giugno, chiedo scusa, ma insomma non avevo sotto mano la data. Allora, il nostro numero telefonico in studio sono due, uno è per quanto chiamarci col telefono fisso, cioè lo 049 875 6423, mentre se volete mandare messaggi a Patrizia Laquidara, che adesso tra poco sentiremo, vi ricordo il 346 23 20 033. Abbiamo in studio una delle esponenti più belle vocalmente, più belle di persona, più belle anche di anima, se mi permetti Patrizia, perché sei una carissima amica prima di tutto, e poi sei bravissima. Benvenuta a Blu Radio Veneto. Grazie. Ciao, grazie di avermi invitato. Stasera fa la DJ, Stasera fa la DJ. È lei che ha invitato noi, Maurizio. Sì, esattamente. Giustamente ha portato dei dischi di sperimentazione. Una sperimentazione, perché dobbiamo... Cioè, chiaramente... ma non solo sperimentazione. Assolutamente. Dobbiamo... ho cercato dare, una giusta miscela. Allargarsi, allargare sì. Il raggio d'azione, è giusto che sia sì. Così. La prossima volta mi farai conoscere tu delle sì, cose. No, sì, un'altra volta beh, tu conosci sicuramente quello che conosco io. Però ho visto dei dischi che hai portato e devo capire, determinate artiste le conosco abbastanza bene, le altre un po' meno, però bisogna conoscere, bisogna ampliare gli orizzonti. E stasera amplieremo sicuramente Guarda, gli orizzonti. È stata una scelta difficilissima, difficilissima, perché poi c'era tantissimo, no, tra cui scegliere. Però intanto sono partita non tanto dalle canzoni, sì. Ma proprio dalla voce, da quello che mi affascinava della voce. E poi anche da artiste, tutte donne, artiste ancora viventi, perché pensavo al jazz, vabbè, chiaro, Billie Holiday, no? Sì. Invece no, questa è già stata una prima cernita, quella di fare di scegliere appunto delle artiste ancora viventi. E la prima artista che vorrei far sentire è una cantante che si occupa di musica popolare, però tradizionale, più che popolare, tradizionale. A volte l'affronta anche in maniera sperimentale. Lei è Savina Iannatou, è greca, sì. Collabora anche spesso con musicisti italiani, soprattutto in Sardegna, con Elena Ledda. Sì. E con musicisti come Mauro Palmas, e Andrea Ruggeri, insomma tutti esponenti della musica popolare in Sardegna, appunto. Possiamo dire musica popolare di ricerca sarda, praticamente. Sì, sì. Non chiamiamo musica etnica, perché l'aveva inventato all'epoca Peter Gabriel, ma poi si è sviluppato, si è allargato il discorso dell'ethno music. Infatti, poi non si sa più nemmeno cos'è musica etnica. Sì, no? L'aveva cominciato Paul Simon, per dirlo, però all'inizio, perché la musica africana è stato lui il primo di tutti, poi tutto il resto è andato. Si è seguito. Sì, la ricerca di musica sarda non è mica semplice, il discorso della ricerca di musica sarda, perché la musica sarda è molto particolare. Sacra o sarda? No, sarda, pardon. Sarda. È molto, molto particolare. Sì. Guarda, io penso che forse la più grande interprete di musica sarda attualmente è Elena Ledda, con cui tra l'altro ho collaborato, e lei veramente per me rappresenta la musica non solo sarda, ma la musica del Mediterraneo. Lei è proprio la voce del Mediterraneo. Savina Iannatou invece ha una voce che è di velluto. Benissimo. E lei si è occupata anche di, naturalmente, di musica tradizionale greca, però anche di molta musica italiana. La musica sarda mi ricorda un certo personaggio, leader dei Talking Heads. Anche lui amava molto, ha sempre amato la musica sarda, lo sai? No. Il leader di Talking Heads, praticamente, sì, amava molto la musica sarda, certe sperimentazioni della musica sarda, perché era amico di Peter Gabriel, anche lui ha delle sperimentazioni. Che ha scoperto i tenori sdibitti. Esattamente, ha scoperto anche quelli, cioè qualcosa c'è. Adesso sentiamo il pezzo, allora, dopo ne parliamo ancora, va bene? Sì. Ok. Allora ci ascoltiamo? Savina Iannatou. Ok. Thank you. pleurer. Yo foute moi, yo foute moi, moi qu'à pleurer. Ay mon Dieu. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Certo che quando si hanno queste voci così possono fare di tutto, vero Patrizia? Sì, Savina veramente fa di tutto. Beh, poi lei gioca soprattutto su queste tonalità sempre alti, suoni verticali, no? È una voce che è molto molto usata, giocata sulla leggerezza. Ma è, secondo te è una dote naturale questa o è un'impostazione dovuta allo studio continuato? La particolarità di Savina è sicuramente il suono, il timbro della voce, e quella è una cosa particolare che ha soltanto lei. Poi sicuramente lei ha anche studiato, sì, leggevo che ha fatto canto, che ha fatto pianoforte al conservatorio, perché sicuramente c'è studio, però appunto è il timbro della sua voce che è particolare, sì. che è totalmente invece differente da quella che vorrei far sentire dopo, che è Elena Ledda, che invece, di cui parlavamo prima appunto, che invece ha un timbro molto molto ruvido, molto... molto grande, molto grosso anche, no? Basato sulle note basse soprattutto. Una voce straordinaria quella di Elena. Io, se mi permetti, magari se è in ascolto la saluto, perché siamo in contatto con Facebook. È una bravissima, veramente, la sento pochissimo ovviamente, però è una bravissima artista, sì. Veramente. Sì. Quindi c'è una vera e propria sperimentazione. Pensavo mentre andava questo pezzo, sperimentale, cioè, musica sì, però la voce certamente... sperimentava proprio il modo di cantare. Mi veniva in mente Demetrio Stratos, che se n'è andato molti anni fa, ma è sempre stato sempre un simbolo della ricerca della voce. Lui ha proprio cercato la voce come strumento, ha, fatto delle ricerche incredibili anche all'Università di Padova, come tu ben sai, ed è arrivato a dei punti altissimi. È diventato uno strumento vero e proprio. Sì. Non so se questa artista mira a questo, non penso. Però cosa dici? Beh, diciamo che forse Demetrio era ancora più sperimentale. Sì, molto sperimentale. Anche se è il capostipite di una... Capostipite? Sì, dice. Capostipite. Ipite. di una scuola, possiamo dire. Sì, che però è stata anche superata abbondantemente. Sì. Adesso, no? Adesso sì. Lui è stato veramente il primo, nessuno aveva mai usato dove lui ha usato, però da lì poi è stato anche superato nella ricerca vocale. Parliamo a proposito di musica sarda o presunta tale o collegamenti. Io citavo a microfono spento Marisa Senia, che se n'è andata un po' di anni fa, non moltissimi purtroppo, ma anche lei è partita dal Festival di Sanremo, poi lentamente ha sviluppato un discorso di ricerca. I primi dischi gli erano stati scritti da Endrigo, poi lentamente ha cominciato un discorso di musica sarda, di ricerca delle tradizioni sarde, che lei è Maria Carta. Beh, Maria Carta la conosciamo tantissimo. Sì. Io conosco la Sannia però soprattutto per quel repertorio appunto con Sergio Endrigo. È non bellissimo tanto... il disco con Sergio Endrigo, gli arrangiamenti che fece all'epoca Endrigo, cose, non le solite cose, ti ricordo Casa Bianca della Sannia Sanremo, però se tu senti gli altri dischi, soprattutto gli dischi, uno inciso e arrangiato, prodotto da Endrigo era molto bravo, al di là del... appariva sempre il melanconico, era così. Noi l'abbiamo intervistato pochi mesi prima che lui morisse, era un personaggio vivo, creativo, cercava sempre di sviluppare determinati percorsi. Eh sì, sì. Beh, ma altrimenti non avrebbe potuto scrivere delle canzoni così belle, no? Esattamente. Puoi essere malinconico, ma devi essere comunque vitale. Vitale, scrivere delle cose molto interessanti. Battiato ne sa qualcosa, visto che ha ripreso molti pezzi suoi. È già Battiato uno che descrive, che sperimenta anche lui i famosi dischi Il Messia e il Gladiatore. A proposito di voce, sperimentazioni, io ricordo Battiato anni fa, eravamo in 50 o 60 in teatro, quindi nessuno, lui si metteva con l'organetto, con un tappeto rosso, e faceva una facciata di Messia e il Gladiatore. John Lennon, Yoko Ono, faceva un'altra di facciata con solo le urla di Yoko, ti ricordi, nel doppio album bianco. Anche lui sperimentava così, all'epoca si sperimentava. Dopo Battiato ha fatto altre cose, anche milioni di copie con la voce del padrone, ma quello è un altro par di maniche. La sperimentazione esiste sempre. E questa ragazza, questa artista che abbiamo sentito, sperimenta, però c'è la musica anche sotto, non c'è solo la voce in questo caso. Cosa dici, Patrizia? Sì, diciamo che il suo percorso è interessante perché fonde... io non la trovo così tanto sperimentatrice, ce ne sono... Beh, poi te ne farò sentire alcune. Ancora? agli estremi forse. Però quello che mi piace di lei è che si usa, che attinge dalla tradizione popolare, però appunto sperimentando anche, ma in maniera magari minima, non proprio massima, però sì, non dando niente per scontato, usando appunto la voce come uno strumento spesso, no? Certo. Con dei suoni particolari. Il secondo artista che abbiamo, la seconda artista, perdono, è sempre una donna, una voce Elena femminile. Elena Ledda. Che ha tutte le voci femminili stasera. Sì, è giusto che l'abbiamo fatto apposta, volutamente. Sì, e di artiste viventi. Di artiste viventi, tutte viventi, decisamente. Sì, e questo è un pezzo di sempre tradizionale sardo, che lei ha però riarrangiato vocalmente insieme ad un'altra cantante che si chiama Simonetta Soro, ed è ripreso da un live fatto appunto in Sardegna. Ok, lo sentiamo. Si chiama Ege, giusto? Eie? Il 6, sì, no, ma si chiama Eie, dico. Sì, si chiama Eie. Ricordiamo che questa è Blu Radio Veneto e abbiamo Patrizia Laquidara con la sua musica, diciamo, preferita. Questa è Elena Ledda, e dopo parleremo anche di Patrizia, ovviamente, della sua tournée che sta per cominciare a fare i suoi, diciamo, esiti positivi. Già è cominciata una settimana fa, Patrizia, se non mi ricordo male. Una settimana più o meno, quando hai iniziato? Il 12 giugno. Il 12 giugno. Sì, prossimo sarà sabato. Ma le parliamo dopo, sì. Adesso ci ascoltiamo Elena Ledda. Li un, li due, li tre, cante, canti, una vi, una lana, pisana, memmeche, tundeche, sundeche. Pisti d'inchino, mallumaino, zenno di longo, lingi bingiarasa, bocci brio. Guste su vrocco, gusto da morto, gusto da cotto, gusto da papaua, pisti rinchedo, non di dalla sa. Manu morta gali, deu ti da posta gali, deu ti dalla sara, manu morta buzzinara. Pizzolo, pizzolo, gabudo, amma damma luado, luado de zangavini, a papà o bani vini, guottimo. Da regalo su cocoi, un arancio bella e manu, bella arancia mura vera, bello sprigo e contonera, bello sprigo e dotto vista, dotto e posto in gusta lista. Su un bacione, su giarretto, san giorno e de su gravito, murgu e un vostro frisco, uobo fai, e madama combirai, a madama luado. Pipiri pipiri dotto nisco, frasco frasco tabarasco. Bessi minci moi moi de asuta dessa mezza. Babaiola, babaiola. Piga su libre, baia in scola. Piga sane, de baia sposai. Babaiola, pronta volai. Luna, luna, luna, donami fortuna, donami dinai, vomi goiai. Luna, luna, luna, donami fortuna, donami dinai, vomi goiai. Ma io veda, vai a castello e bitti mi sanedu, vomi goiai. Ma io veda, vai, vai. Serra, serra, palaza, terra, palaza, muru, sudopi, muru, murru, sudopi, dottu sanotti, dottu sadi. Furia palas e croccari. Serra, serra, palas a terra, palas a muro, e babudu, se stimbriagau, e mamma tua, puro, puro, puro. Baballotti, baballotti, sugli e si da solotti, sugli e si da vedi. Baballotti, papaceto, papaceto, mamma non c'è, hai nue, hai scalita, e le poi tavo simbu la fritta, e pochine, po San Giole, da bene marruccia, e papà sincerda, dilli riduce, dilli da, dilli da, dilli da, e zacca manetta, zacca manetta, zacca manetta, chi beni papà, uno villonetto, uno villonetto, uno villonetto, da da portai, uno villonetto, pronta volai, zacca manetta, zacca manetta, zacca manetta, zacca manetta, zacca manetta, chi beni papà, uno villonetto, uno villonetto, uno villonetto, da da portai, e dilli ridi, dilli da, dilli da, dilli da, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di. Bella Jesus, bella, bella graziosa, bella Jesus, bella, bella graziosa, ti sei fatta sposa, ma non ti goia mai, ti sei fatta sposa. Melodia ici, dilli da, dilli da, dilli da, dilli di, dilli da, dilli da, dilli da, e na deli pe, e na deli pe, e na deli bella, sanzone da mia, e na deli pe, e na deli pe, e na deli bella, si non si morie, dilli da, dilli da, dilli di, dilli da, dilli da, dilli ai, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli di, dilli da, dilli da, e tuturu turu, tuturu Anna, e Maria Antonia, e Maria Anto, e Maria Antonia, Ruta Fontana, e Maria Antonia, e Maria Anto, e Maria Antonia, Ruta Suludo, e Bacca Mazeda con boi corrudo, Bacca Mazeda con corro spizzao, un uvariceddu, un uvariceddu, un uvariceddu minciato abitavo, un uvariceddu con conca rullava, e pace bianca, pace bianca, pace bianca mattata con nao, facci bianca che mindula prori, e beni uccidi uno prati minori, e con una sorria pensionista, a cadioro a canta in missa, e a carrucoccio vodava silai, e tu duru duru, e tu duru dai, e tu duru duru, e tu duru dai, e tu duru duru, e tu duru duru, e tu duru duru, e tu duru dai, tia di tia di tia di tia, di tia di tia di tia di tia, di tia di tia, su grido de codazia, de codazia strangia, chi vendi sa castangia, chi vendi sa nucetta, sona sa campanetta e sona da forti forti, sona da forti forti, chi si intenda da monti a monti, gruvetto in non ti tocchi, vento, non ti tocchi, c'è regia. Prega Santa Maria, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, di Dia, la cruci porta l'udina, l'udina porta la cruci, la nuci porta l'ucrio, l'ubiccioni più più, più più le piccioni. E me me facci l'agnoni, l'agnoni facci me me, lo volca due ue ue ue, fa lo volca du bau bau, lo cate du bau bau, lui a tu facci miau miau, facci nu iad, lui a du kikiri ki, kikiri facci nu iad, zo bue lo mio cavad, zo bue non panna, abadai abada, abadai abada, abadai abada. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. No, non state sbagliando emittente in questo momento, questa è la vostra emittente, che non mi sembrerà vero, ma stiamo trasmettendo una musica un po' particolare, la musica che piace a Patrizia Raquidare, il nostro omaggio che Blu Radio Veneto ha voluto fare a questa immensa, grandissima artista della musica italiana. Vi ricordo i nostri numeri telefonici. Allora, qui in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms è 346 2320 033. Vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it, da dove potete ascoltarci anche in streaming cliccando sotto la famosa ormai striscia rosata con scritto streaming, sotto c'è una freccia nera piccolina sulla sinistra, cliccando lì sentirete la vostra emittente. Questa è la voce di Agostino Spolaore, casualmente ed eccezionalmente appunto per Patrizia, assieme a Maurizio, per portarvi fino alle 24 circa con questa musica un po' particolare, le sue canzoni preferite. Patrizia, però non sei venuta da sola questa sera, giusto? Ci siamo dimenticati di Beh, di presentare il tuo musicista. Sì, sì, è un musicista di Vicenza. Sì. Non suoniamo ancora insieme, no Antonio, però suoneremo presto, penso, insieme a Antonio Gallucci, e lui è sassofonista. Ciao Antonio. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Infatti ciao, gli chiedevo Antonio, se vuole intervenire, intervieni quando vuoi. Sì, poi ci sono anche Totoro e Licotta, che però non faranno fatica a parlare questa sera, che sono le due cagnoline. Esattamente. Che sono sempre con me. Abbiamo sentito questa artista sarda, queste filastrocche ipnotiche che si ripetevano continuamente, volutamente, perché le filastrocche devono essere così. Sì. È proprio una caratteristica di tutte le filastrocche, non quelle sarde, di tutte le filastrocche italiane, non soltanto italiane, chiaramente. Una capacità, devono avere una capacità incantatoria. Sì, esattamente, ipnotica, incantatoria, hai detto una cosa giustissima. Questo sì, è un pezzo registrato dal vivo in un concerto che lei ha fatto in Sardegna, chiaramente. Sì, mi sembra a Cagliari, durante l'Expo. Sì, che c'è un grande festival jazz, no? Tutti gli anni, che si chiama Expo. Ti porto dei saluti innanzitutto, perché qui la gente già ti saluta. Giovanni, Sara Sol, che poi tra l'altro è stata ospite qui, Enrico, poi c'è Roberta, aspetta che poi ti dico ancora, Arianna e Davide da Torino. Ah, ti grazie. Stanno ascoltando e sono all'ascolto della tua musica. Grazie, li saluto anch'io allora. Grazie. Patrizia, parliamo un po' di te adesso, prima di andare avanti con la tua musica. Cioè, questo canto della Guanna ti sta dando tante soddisfazioni, immagino. Sì, tantissime. Sì, sì, assolutamente. Questo concerto? Il primo concerto devo dire che è stato bellissimo, per me è stato bellissimo. L'abbiamo fatto a Valli del Pasubio, sì, per cui un paesino che ci ha accolti nel suo teatro, un piccolo teatro di 250 posti, ma l'intenzione era proprio quello di partire da un teatrino, sì, da un teatro, ma proprio alle pendici del monte, no? Del Monte Pasubio, appunto. Mi sembrava fosse giusto partire da lì, no? In un luogo anche che poi ha molto a che fare con le Anguane. Però sabato prossimo, invece, questo sabato, scusami, il 25, sarò in un altro posto dove si dice che compaiono le Anguane, si chiama il Buso de Arana. Ah, quello famoso che l'avevo accennato. Sì, dove ho anche scattato le foto, sono state scattate le foto del disco, belle, della copertina foto, del disco. Che sono bellissime. Lì c'è una grotta che si chiama appunto il Buso de Arana e siamo all'interno di un festival che si chiama Festival Incantamonte, a Monte di Malo. Okay. Penso sarà una bella serata. Tra l'altro, durante il concerto ci sono dei campioni, delle registrazioni che io mando, e dentro questi campioni ci sono anche dei versi di pipistrelli che sono stati registrati dentro quella grotta lì e che sono autoctoni. Ah, proprio, quindi insomma, originali. È una piccola particolarità. E poi sabato ci saranno anche le canterine del Feo. Ah, quelle famose. Sì. Che abitano proprio lì, vicinissimo, sì, perché il Feo è una contrada di Monte di Malo. E poi ci saranno un coro di piccole bambine che si chiamano le Donette del Monte. Ah, questo non lo sapevo. Saranno nostre ospiti, sì. Sono bambine di un coro di bambine dell'asilo proprio, che arrivano da Verona e che mi hanno fatto questa sorpresa, in quanto loro... La loro maestra aveva fatto sentire loro il canto dell'anguana e loro si sono affezionate ad una canzone che è nota d'anguana, se la sono imparate, e durante il saggio di fine anno hanno fatto questo pezzo, sì. Per cui verranno su con noi al festival. Quindi faranno un live con te praticamente. Sì, sì. È una cosa bellissima. E sarà bellissimo vedere le Donette del Monte, queste bambine dell'asilo, con invece le canterine del Feo, no? Questa sarà una bella serata. Decisamente. Patrizia, c'è Giovanni che mi chiede, ma Patrizia è veneta? Sì, penso di essere veneta. Dico penso perché comunque sono originaria di Catania, siciliana. E sono nata lì, anche mio padre è lì, per cui dovrei essere più siciliana che altro, però mi sento anche veneta naturalmente. Beh, mia madre è veneta comunque, no? Sì. Penso di essere un po' tutti e due, ma anche nessuno delle due. Non mi sono mai sentita completamente a casa... Hai la parlata luogo. Un po' veneta comunque. La parlata è assolutamente sì. Alto Vicentina. Va bene, allora poi magari torneremo a parlare della tournée, magari altre date, se qualcuno poi verrà avrà voglia di venirti a sentire, a vedere, insomma, magari darai qualche data. Cosa ci proponi adesso? Allora, prima si parlava di sperimentazione. Ecco, io credo che... Ai livelli massimi adesso, mi pare. Io credo che femminile. Lei sia veramente una grande sperimentatrice, oltre che un'artista davvero pazza. Si chiama Sainko, è bravissima. Io la chiamo la voce vertiginosa, perché riesce a raggiungere dei bassi straordinari, profondissimi, e anche degli altissimi. In questo primo brano, che vorrei far ascoltare, soprattutto ascolteremo la sua voce, quella che raggiunge tonalità alte, ma subito dopo, per chi volesse poi acquistare questo disco, che si chiama... We Stole the Sky, okay, bravo. Che ha rubato il cielo, mi pare che sia così, vero? Ecco, notaio conferma. Confermo. Lì dentro si può sentire anche quell'altra parte della sua voce. Patrizia, mi è venuto in mente una cosa, mentre tu parlavi, agli estremi. Te la ricorda la Galas, te la ricordi? Sì. Ecco, anche lei fa queste cose estreme, molto estreme. Hai ragione. Possiamo fare non dico una vicinanza, un punto di contatto, però... Adesso sentiamo prima quest'artista, certo. Poi parliamo un momento della Galas. Ti dirò che io ho un po' tralasciato questa sera tutto quello... Rocchettaro. Il repertorio. Sì, perché c'era un mondo grandissimo lì, no? Non avremmo potuto... Già così c'è troppa roba. Per cui poi nel mondo del rock si apre poi completamente un altro capitolo. Anche se la Galas è un po' fuori dal mondo del rock, secondo me. È un po' a parte. Sì, è vero, sì. È un'artista unica. Difficile, ragazzi, molto difficile. Le sue performance live sono una cosa straordinariamente inquietanti, però anche lei sperimenta, è alla grande. Ok, sì. Sentiamo il pezzo allora. Thank you. Jorm Bodum, Chure Jorben, Churtum Satu, Perla Chorben, Chalam Chitti. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, Patrizia, hai preso paura? Patrizia? Aspetta che Maurizio ti sistema. Eccoti qua. Eccoci qua. Sì, esatto. Senti, allora io volevo spiegare un po' questo disco, certo, di Sainco, perché per lei personaggio è veramente... Cioè, con la voce fa delle cose straordinarie e soprattutto molto molto sperimentali, come ho detto prima. Questo disco è un po' particolare, diciamo che questo era uno dei brani più commerciali che lei, giustamente, che lei il tuo fa. Nome non mi ricordo mai. Antonio è un brano rock, siamo d'accordo con sì, lui. Infatti, non volevo portare una cosa troppo troppo sperimentale vocalmente, ma poi la gente può andare a cercare, insomma. Però lei ha dedicato questo album, pensa, dedicato ai computer e agli esploratori di internet di Tuva, perché lei proviene da Tuva, che è un paese della profonda Siberia, Russia, insomma, sì, più vicino alla Mongolia. E niente, si dice di lei che è una sperimentatrice che riesce a miscelare antico, l'avanguardia, il sincretismo, lo sviluppo multimediale. È veramente un'artista particolare. Anche difficile da gestire, tu mi raccontavi. Ho sentito, esattamente. Sì. Hai sentito, è difficile da gestire. Come tutti gli artisti un po' particolari, sono difficili da gestire. Esattamente. Sì. Sa qualcosa del produttore di Bjork all'inizio, poi le cose sono cambiate, poi è diventata una star. Allora. Ma quando faceva, era con la band, era un po' strana. La band è molto bella, molto interessante quella band, sì, sua. Sì. Decisamente, ha fatto cose molto molto avanti, poi chiaramente sai, successo commerciale, i film, tutte queste robe, cambia il personaggio, è diventata una star, ma mica tanto facile da trattare come star, quando è sul palco ci sono delle cose, dicono, io non l'ho visto, ho letto le cronache che qualche volta vuole suonare, non vuole suonare, insomma è un po' strano, come tutti gli artisti, ma è giusto che gli artisti siano così. Parlavamo prima con Fabrizio, prima di iniziare il tuo programma, degli artisti che sono un po' particolari, ce ne sono tanti, ma i geni sono così, c'è poco da fare. Patrizia, c'è Enrico che chiede se ci canti qualcosa a cappella, ce la fai? E cosa devo fare? È quello che vuoi tu, la canzone tua. Facciamo così, intanto ci penso. Sì, bene. Allora Enrico, non chiudere l'emittente, stai lì che poi tra poco Patrizia ti farà sentire la sua voce, e non solo a me, a lui, anche a tutti noi. Ritorniamo un momento a questo personaggio, a questa artista. Parliamo che lei viene dalla profonda Russia, eccetera, un disco sperimentale. È interessante però capire che la sperimentazione qua, in questo pezzo, era collegata al rock. Forse non c'è neanche sperimentazione, c'è un pezzo rock, come abbiamo detto. Però non è... Io forse più che rock questo era proprio collegato con, come dice lei, col computer. Ah, col computer, sì, quindi era abbastanza no? semplice come da sentire, non era difficile, non era pesante. Sì, era molto binario proprio, come perché era collegato al computer, un ritmo molto, molto regolare, no? Col computer si fa delle cose anche semplici o anche molto complicate, cosa dici? Sì, assolutamente, beh, insomma è tu che suoni il sax, beh, è importante anche quello, eh. È sicuramente uno strumento che amplia la gamma espressiva se usato in una certa maniera. Sì, con cognizione di causa ovviamente. Giusto, io ricordo una cosa che non c'entra niente, ma mi è venuto in mente adesso, scusatemi, forse non siete d'accordo. C'era un famoso direttore d'orchestra che giocava con il computer e aveva fatto delle sperimentazioni. Era un direttore d'orchestra di musica classica, però sperimentava col computer. E successo l'ha avuto più sperimentato con il computer, no? Che non come direttore di musica classica. È una cosa che capita spesso e volentieri. A proprio di computer, ricordiamo Brian Eno, che è il massimo della sperimentazione, anche una sperimentazione curata. Dai Roxy Music alle ultime cose un po' particolari, anche lui sperimenta, ma ha anche sperimentato anche con artiste femminili, Brian Eno, quindi sì. Non è una... sì, lui è un mago nel inserirsi in maniera molto delicata, esattamente, nel non far capire, nel non far sentire nel primo ascolto che c'è, però nell'essere determinante per il colore, no, per la profondità della musica, no? Gli U2 ad esempio, esattamente, poi negli stessi Coldplay ha dato un ricordiamo che il suo tocco è, diciamo, non visibile, ma è fondamentale, no, per il successo. Io mi immagino un Brian Eno che produca questo personaggio qua, questo artista qua, secondo me farebbe delle cose molto molto interessanti, e non totalmente, la gestione sarebbe stata non si sa mai. Brian Eno è un personaggio che può arrivare anche a questa, noi ce lo auguriamo. Sì. Ok, poi proseguiamo nella scaletta. Cosa hai scelto adesso, Patrizia? Lei è una cantante che io adoro, l'ho scoperta non da tantissimo, però lei è entrata proprio nella in quella gamma di cantanti che ami particolarmente. Sì, si chiama Zheng Shui. E lei lavora a New York, ho lavorato moltissimo con Steve Coleman. E anche se la particolarità è che proviene da genitori di Taiwan, per cui anche lei, no? Così sì. Strana, è una mistura di tante cose diverse. E voce straordinaria, suona il pianoforte, oltre che a uno strumento tradizionale cinese di Taiwan, ma veramente adesso non ricordo il nome di questo strumento. Ma poi mischia moltissimo il canto, ma anche con la poesia, con performance di danza. È veramente molto molto particolare, e questo disco è un disco, lei appunto si è accompagnata per tanto tempo con Steve Coleman, questo è forse il suo primo disco da solista. Da solista praticamente. Sì. E qui la sentiamo in questo pezzo. È una bella copertina anche. Sì. Molto molto interessante. Sì. Sì. E lei qui esordisce con un pezzo per voce sola. Ok. Zheng Shui. Ciao! She will keep on loving. Rinna Lidio ai il haalieta kiu. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Rock 23:31 oggi è questo martedì particolare con Patrizia Laquidara. Siamo onorati e felicissimi di averla qui in studio, ma lei ormai non ci fa più tanto effetto perché è una carissima amica, poi è di casa, vero Patrizia? Sì, ti aspettiamo ancora ovviamente, insomma. Certo. Allora, la voce di Agostino Spolore con Maurizio Calzavara e assieme alla nostra cara amata Patrizia, che stiamo scoprendo con i suoi gusti musicali. È un aspetto un po' diverso di te, non tutti lo sanno, vero, di queste cose. È bello sapere anche i tuoi gusti, Patrizia. Guarda, l'artista che ho scelto adesso invece forse si avvicina un po' di più, forse è un po' più vicino anche alla mia... Forse uno si può immaginare che io possa andare da questa parte. E lei si chiama Sheila Chandra. Questa è abbastanza famosa in giro. Sì, sì, sì, scusami, sì. Patrizia, possiamo un momento, Antonio, citare i musicisti di questa artista precedente? Ah, sì, di certo. Esattamente. Sì. In questo disco qua ci sono delle presenze molto importanti del panorama jazzistico americano, newyorkese in particolare. David Binney, che è un grandissimo alto sassofonista, che ormai insomma sono parecchi anni che sta calcando la scena al top in America. Io tra l'altro l'ho visto proprio recentemente a New York in un progetto suo con Antonio Sanchez e Scott Colley. Antonio Sanchez è il batterista di Pat Metheny, sì, esatto. E Scott Colley, ed è stato veramente uno shock nel senso positivo, perché un'energia incredibile che proveniva dalla sua musicalità, no? E poi ci sono altri nomi importanti sempre del panorama jazz, sia mainstream che avanguardia, che sono ad esempio Thomas Morgan al basso e una rising star, cioè una stella nascente, che è Dan Weiss alla batteria, insomma, che è uno dei più importanti jazzisti, diciamo, che stanno arrivando adesso. Sì, sì. Anche lui da qualche anno che c'è, però diciamo ci si sta accorgendo di lui adesso. Vai Patrizia, allora parliamo di questa nuova artista per la scaletta del programma, chiaramente, che adesso hai citato. È abbastanza famosa, è conosciuta. Sì, sì, sì, lei non solamente nell'ambito di certa elite, è abbastanza conosciuta. Dai. Sì, sì, sì, sì, infatti. Ma lei però comunque mi sembra sia nata in Inghilterra. Sì, mi pare lei non sì. È nata in India, ha discendenti indiani, poi ha questo viso tipicamente indiano. La cosa che mi colpisce di lei è proprio la spiritualità che si sente moltissimo nella sua voce. Una voce splendida. Ecco, io penso che lei veramente sia una delle voci più belle che esistano al mondo proprio, E spesso la sento in casa anche... perché mi dà un senso di serenità, di pace enorme. Sì, sì, sì, sì. Ha quasi una funzione terapeutica per me la sua voce. Ho capito. Speriamo che sia anche per noi. Adesso la sentiamo, cosa dici? Sì. Vai Agostino. I saw you first on a Sunday evening about the altar as I was kneeling upon Christ's passion as I was reading, but my eye was on you and my soul heart bleeding. Oh Donald Dog, can't you feel me near you? Why don't you tremble the way that I do. I'll be your lantern to show you truth plainly. And if you are set on, I'll defend you bravely. Oh, wild as a crow is this heart within me, dark as your shadow is this grief that blinds me, stained as a blueprint on a polished hallway. And it is you that has stained it forever and always. What's before me and what's behind me? You took east and west when you wouldn't mind me. Sun, moon, and stars from my sky you've taken. God above, or I'm much mistaken. I saw you first on a Sunday evening about the altar as I was kneeling upon Christ's passion. I saw her heart bleeding. Oh, hey. Oh, hey. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Beh, io ve lo ricordo continuamente, questa, che se non mi sembra vero, è Blu Radio Veneto, con queste voci stranissime, ma questi sono i gusti della nostra amata Patrizia Laquidara, che è qui presente questa sera perché ci rende omaggio con la sua presenza, ovviamente, con anche con Antonio, un musicista che l'ha accompagnata. Blu Radio Veneto, dicevo, fino alle 24 circa con Agostino e con Maurizio, eccezionalmente, poi magari ci risentiremo ovviamente anche giovedì. Patrizia, allora, raccontaci qualcosa. Dimmi, fammi una domanda. No, noi vogliamo sentire la tua voce, però magari ce la fai adesso la canzone o... Infatti sì, mamma, sai che me lo sono ricordata adesso. Ecco, brava, complimenti. Ci penso un altro po', alla prossima. Alla prossima lo faccio, perché giuro, qui sono ansiosi, giuro. Intanto, scusami se ti interrompo, ti porto i saluti di Roberta, che è una cantante che ha cantato la settimana scorsa qui al Pedrocchi per 3 serate e ha detto che ha fatto un successone, quindi... Bene, grazie Roberta, ti saluto anch'io. Ecco, ciao Roberta, un bacio. La Patrizia, mentre sentiva questo pezzo, anche Antonio e anche gloriosamente sottoscritto, abbiamo detto che sì, lei è inglese, d'origine indiana, cioè c'è una commistione tra musica folk americana, musica inglese, che deriva chiaramente da quella americana, deriva da quella inglese, il folk, e la musica indiana. Sì, devo dire che comunque in questo CD, in questo album, io ho scelto proprio l'unica canzone dove lei parte proprio da questo presupposto. È un brano irlandese che lei mischia con un altro brano indiano, perché poi tutto il resto dei brani sono invece proprio brani indiani. C'è anche un brano alla fine che fa Om Namah Shiva, Om Namah Shiva. Vedi che ha cantato, vedi che ecco, ha cantato. Ho finito. Va bene così. Sì, avevi detto questo. Il mix è molto fluido, tra l'altro. Esatto. Fra le due. Sì. Sono due cose molto distanti che lei riesce a rendere uniche e unite in maniera estremamente naturale, no? Questa è la cosa. Sì, infatti la caratteristica della voce di Sheila Chandra è proprio la fluidità, la liquidità. Sì. Ha una voce che sembra acqua, non acqua so, e aria. Certo, non so se è vero quel che dico, però a me sembra che il buon Peter Gabriel abbia prodotto un disco suo o si sia interessato alla sua carriera, sia entrato nel giro suo, nel senso di produzione, nel senso di affiancamento musicale. Dici no te? No, potrebbe essere. Mi pare di sì. Ma noi ci fidiamo di te. Ecco, ti ringrazio. Per Peter Gabriel è un personaggio che ha sempre amato queste ricerche e la sua famosa collana di musica etnica che lui ha fondato, World Music, ha portato avanti determinati discorsi anche interessanti, anche di musica indiana. Questo sono sicurissimo, mi ricordo proprio visivamente di un disco musica indiana cioè prodotto da lui. Ok, adesso andiamo con una musicista italiana stavolta. Sì, e anche che tu conosci bene. Pensavo di fare sentire questa voce straordinaria che è di Silvia Donati, perché secondo me lei nell'ambito, perché lei è veramente una jazzista, secondo me una, forse la più grande jazzista in Italia. Anche lei molto sempre molto nell'ambito della sperimentazione, in effetti noi la sentiamo in questo disco che si chiama Cocktail Saturno, dove ci sono dei musicisti come Alfonso Santimone, Alessandro Fedrigo, che tra l'altro è proprio di Padova, Gianni Bertoncini, che di Schio, Gianni Bertoncini, quindi bande vostre. Sì. Sì. Io credo che Silvia sia stata l'unica cantante per ora, credo, non vorrei sbagliarmi, ma che ha inciso per il Gaio Rocco. Il Gaio Rocco è questo collettivo di giovani improvvisatori e credo che sia lei l'unica donna che ha inciso con loro, per adesso. Per adesso. La prossima sarà Patrizia? Ci stai pensando. Non so se il Gaio Rocco accetterà mai questa collaborazione. Perché no? Ma dai, speriamo. Dai. No, sono un collettivo che stimo moltissimo e che si farà conoscere sempre di più, insomma. Certamente. In Italia, ma anche all'estero, Sono molto apprezzati anche all'estero. Hanno prodotto dei lavori fantastici, insomma, ultimamente anche il quartetto di Franco D'Andrea, tra l'altro. Ah, sì, infatti. Silvia ha questa voce particolare, è una voce invece per me, per quanto riguarda, cioè la mia sensazione, è una voce di terra che mi ricorda il primo chakra proprio. Ah, ho capito. Ha una voce con dei bassi che anche un uomo fa fatica a raggiungere. Bene, questa canzone è stata scritta da Alessandro Fedrigo, che è questo bassista di Padova. Di Padova. È un brano molto particolare. Beh, lo sentiamo, no? Dai, sentiamolo, okay. Sì. Space and sound around my pain, so I come out of this floating, vibrating and warm open sea. And then why I can't open my eyes, lost in time, I've lived a millions of days passing by. And and suddenly I found myself down in a strange deep dream. SMS 346 2320 033. Rock Wave, l'onda del rock. Non manca molto alle 24, vero Maurizio? No, non manca molto, però questo non vuol dire che abbiamo finito, assolutamente. Abbiamo sempre un guest track di 10 minuti libera, è vero Patrizia? Pronta e libera per essere utilizzata in una certa non maniera. Tanto hai problemi di orario, Magnettina? No. Allora, fino alle 3-4 di notte siamo qui, va bene? Sì. Facciamo un notturno, vuoi? Non no, ti no, dispiace. Dai, non facciamo prendere paura chi ci ascolta. Guarda che insistono qui, e anche Giovanni si è associato, bene, e vogliono sentire la tua voce. Allora pensavo, siccome la prossima cantante è una cantante brasiliana, andiamo più su cose, sui classici, classici, no? Allora pensavo, per introdurla, potrei fare questa canzone che si chiama Antonico. Sì, perfetto. Una piccola osservazione che ha fatto Antonio, bellissima secondo me, pertinente, mentre il disco andava. Cosa dicevi della voce di questa musicista, questa artista bolognese? No, dicevo che in questo pezzo e comunque in quel disco... la voce è alla pari rispetto agli altri strumenti, ecco, non è qualcosa che emerge, è ma è una cosa che si mischia, una simbiosi vera e propria. Sì, e c'è un interplay continuo, c'è uno scambio continuo fra la voce, che è usata proprio effettivamente come uno strumento di improvvisazione puro, no? Mm-hmm. Non è un qualcosa che sta sopra e che viaggia sopra un accompagnamento, ma è un qualcosa che compone la musica da sotto. Certo, sì. Certo. Ma infatti devo dire che Silvia è veramente una musicista, più ancora che una cantante, è veramente una musicista. Per questo anche, dicevo, è jazzista nel senso proprio più vero della parola, ma comunque è anche proprio l'etica di questi musicisti, no? Io ho sentito spesso Silvia dal vivo e anche dal vivo c'è questo modo di intendere la musica, una cosa che si crea lì, è il momento che vive molto nel presente, nel questo momento interscambio presente, sì. Molto intenso, sì. Continuo, sì. Bene, aspetta che devo mandare un bacione a Patrizia da parte di Paola Memeo in arte Amelie. Dice hai ragione, bacio grande a Patrizia, è stupenda. Grazie. È una grazie, tua collega. Paolo. La conosci, grazie. Dovresti conoscere, penso. Allora è il grande momento? Ve la canto. Sì, ce sì, la sì. Canto. No, non è l'unica, ne canterei un'altra poi alla fine. Perché Vabbè, ma questa è veramente improvvisata adesso qui. Tutti vogliono sentire la tua voce. Dai, spero di farcela. Sì, dai. Ce la fai sicuramente. O Antonico, vuoi pedir un favor? Che so dependi da sua boa vontade, é necessário uma viração para onde estou, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba, ele é aquele que na escola de samba toca cuica, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até muamba já fizeram pro rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo bem feliz, se Deus quiser. E agradeço pelo que você fizer, meu senhor, o Antônico vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração para onde estou, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Maurizio. Brava, non brava. C'è bisogno di strumenti. Brava. A cappella così è difficilissimo. Poi pezzo brasiliano non è mica semplice. Giovanni, già difficile per se stesso, secondo Giovanni me. Ti batte le mani. Tra l'altro è un musicista anche lui. Grazie. No, ciao Giovanni. Questo è un bellissimo pezzo. O Antônico, che per prima ho sentito cantare da Gal Costa. Mm. Bene. Allora passiamo a una brasiliana vera e propria, che si chiama Maria Bethânia. Io tra i brasiliani avrei potuto scegliere un sacco di voci, perché poi sono molto appassionata delle voci brasiliane, da Marisa Monchi a Elis Regina, eccetera. Però questo disco è un disco che Maria Bethânia ha dedicato interamente alle poesie di Vinicius de Moraes, per cui sono tutte canzoni di Vinicius de Moraes. Tra l'altro anche tu hai fatto un disco, se non sbaglio. Sì. Col fato. Sì, però era dedicato a Caetano Veloso, erano tutte canzoni scritte da lui oppure interpretate da lui. Quindi anche tu sei andata a pescare qualcosa in Brasile, insomma, i suoni? Sì, ho pescato molto dal Brasile. Quando è che peschi anche dal gospel? Dal gospel? Vediamo, magari tra un po'. So che avevi mezza intenzione. Di... Maria Bethânia è la sorella di Caetano Veloso, tra l'altro. E, bene, questa non è una canzone che amo particolarmente, Mia Namorada, perché poi c'è anche un testo di Vinicius de Moraes che appunto non è il mio testo preferito, diciamo, però è un grande classico e penso che lei interpreti questa canzone qua con una voce con molta saggezza. Ecco, quello che sento io nella sua voce così profonda, così piena, è una saggezza che lei acquista sempre di più con gli anni. Maria Bethânia ascoltavo i suoi dischi di quando era molto più giovane e non aveva assolutamente il fascino che adesso ha in questa sua voce, che diventa sempre più profonda, sempre più intensa. Forse è quello che mi piace di lei, no? Poi lei ha molto a che fare anche con i Santos, con gli Orisha, con una spiritualità brasiliana. E sì, so che è un personaggio molto particolare anche riguardo a questo, insomma. L'ascoltiamo. Sì. Questo è Modigna. Questo è il primo pezzo, che è bellissimo lo stesso, però è un pezzo che si chiama Modigna. Ok. Magari sentiamo Mia Innamorada. Sì. Ecco. Se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada você poderia ser, se quiser ser somente minha. Exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer, e também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho sem ninguém saber porquê. Mas sei mais do que minha namorada. Você quer ser minha amada, minha amada, mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, os seus braços o meu ninho. No silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira, no infinito de nós dois. Dolcissima, dolcissima per arrivare alle 24 di questo martedì. Sono già le 24, dobbiamo fare prestissimo. Dobbiamo fare prestissimo. Allora presento l'ultima. 10 secondi di presentazione, sì, dai. Anche qui andiamo un po', è un poco più commerciale, un po' più pop, però lei si chiama Mayra Andrade, è una cantante capoverdiana, anche se è nata a Cuba, anche lei ha una storia piena di paesi, ha vissuto in moltissimi paesi diversi, adesso abita in Francia, e appunto capoverdiana e... è una voce che sa molto molto di Africa, è giovanissima, credo che abbia meno di, penso abbia 25 anni, però sentite che voce matura lei riesce ad avere, insomma. Ascoltiamo. Pedro. brinca caminho pão por demonstrar. És nossa cultura, na cara passo pintada. Nes mundo fora, grandeza que Deus dá no amor. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, perfetto. Eccoti qua. Perfetto, se 24 perfetto, e 5 è esattamente. Perfetto, va benissimo. Bene, ci rimangono 4 minuti. No, no, ci rimangono 4 minuti, ci rimane il tempo per sentire il tuo pezzo da disco. Sì, no, allora volevo intanto riallacciarmi al discorso di prima. Patrizia, le prossime date tue della tournée, perché ovviamente facciamo un po' di pubblicità. Allora, la prossima è appunto il 25 sabato al Festival Incantamonte, il Buso della Rana, a Monte di Malo. Poi sarò il 6 luglio a Valdagno, Villa La Favorita, il 13 luglio a Piacenza, il 21 luglio a Somma Campagna, Verona, il 22 luglio a Brescia, il 9 agosto a Porto Tolle, l'8 settembre a Bologna, e poi ci sono altre date, ma io vi sto dicendo soltanto quelle del Canto dell'Anguana, ma c'è tutto scritto nel mio sito. E a Padova lo fai il Canto dell'Anguana? Per ora no, invitatemi. Va bene, volentieri, cercheremo di fare, chiederemo a qualcuno del settore di aprire appunto le porte al tuo concerto. Dai. Tra l'altro questo concerto, c'è qualche particolarità? Ti porti sempre appresso le tre canterine, dici? Tanto sono 5, non sono 3. Io l'ho visto. Sulla foto sono 3 però. Erano tre al 12 perché ne mancavano sì. due. Ah, ecco, perché tu hai visto le foto di quelle. Certo. Sì. Due erano influenzate. Anche una terza era influenzata, però è venuta lo stesso. Una grande. E no, non ci sono sempre, ci saranno adesso sabato. Poi una particolarità è che invece il 6 luglio a Valdagno ci sarà un altro ospite, un coro, che si chiama Coro Ciclamino di Marano. E no, mi piaceva pensare di invitare tutte queste realtà locali, no? che sono abituati a fare canti tradizionali. E nel concerto sono accompagnata da Giancarlo Bianchetti alla chitarra, da Maria Vicentini che suona viola e violino, da Thomas Sinigaglia alla fisarmonica, Davide Garattoni al basso, Nelly De Mandello alla batteria e Luca Nardone alle percussioni. E diciamo che poi uso anche molto strumenti come la Licon Voice, che va a lavorare sulla voce, ad amplificare molte cose della voce, al caos pad, per cui ci sono anche degli inserti di campione e di elettronica, campioni di elettronica. C'è un Fripp in gonnella praticamente. Dai, non esageriamo, però... Ma anche Fripp ha fatto queste robe qua, con la chitarra chiaramente lui, Fripp Tonic famoso. Però sì, mi piace perché comunque cerchiamo di renderlo non uno spettacolo, un concerto classico, ma anche appunto mischiando altre cose, no? Certo. Mischiando anche un po' di recitazione da parte mia. Patrizia, per chi non sapesse che cos'è questo Canto dell'Anguana, ce lo vuoi spiegare in 30 secondi? Il Canto dell'Anguana. Intanto diciamo che è il mio ultimo album, sì, esatto. che è uscito a febbraio, e cantato tutto in dialetto alto vicentino con i testi di Ennio Sartori. Le musiche sono tutte originali di me e di Alfonso Santimone, più o meno tutto insomma, ed è un disco di musica tradizionale veneta, popolare veneta, anche se tutti i brani appunto sono originali. Tra l'altro Alfonso Santimone è quello che abbiamo sentito suonare con Silvia Donati nel disco di prima, per cui uno sperimentatore, un improvvisatore che però con me ha fatto anche questo lavoro su musiche tradizionali. Si chiama Il Canto dell'Anguana perché l'anguana è la figura, è la protagonista di questo album, ed è una figura mitologica che si trova soprattutto nell'Alto Vicentino, ma che abbiamo ritrovato anche in tante altre parti del mondo. Mandiamo un brano e poi questo ci salutiamo. Si chiama Reina d'Ombria, Regina dell'Ombra. Che bellissimo, abbiamo scelto per un mese consecutivo nelle programmazioni nostre. Io ho scelto questo per te. Ti ringrazio, molto sei stata gentilissima. Ok, sentiamo adesso. Ascoltiamo. Stanotte se una notte da rubar le donne, e la luna come la sera, così bella e fortunata, così piena di luce. rose posata sui campi, su tutti sti fiori che profuma la metera de rose e de viole. Stanotte se la notte da rubar le stelle e la luna come la serosa così sgaia e furegata, così piena di vita, drissata sui corpi, su tutti sti amori che abbraccia la metera de voi e slangori. Impena dolce gioia e la pelle si invola in sta notte de travasi de coccole basi. Adesso vado a letto con una nanna, vero? No, volevo sì, fare sì, anche sì. La regista, sai, però... Agostino. Ah, sì? Sì, sì. Mi ha preso il micro, mi ha preso il pulsante della sì, diretta. Mi sta abituando. Sarà per la prossima volta, allora vieni qua, noi sì, siamo di là, va bene? Però volevo ricordare quelli che hanno suonato in questo disco, certo, perché poi sono loro che hanno formato il suono del disco. Certo. Infatti poi, sì, Antonio mi stava chiedendo del lobo, e l'oboista, un bravissimo musicista che si chiama Paolo Bressan, che qui ha suonato tutti i fiati, ma è stato lobo è il principale strumento. E poi c'è Mirko Maestro, la fisarmonica, Andrea Neresini, la chitarra, Lorenzo Pignatari al contrabbasso, Andrea Ruggeri alle percussioni e Nelide Bandello che ci segue anche, che mi segue anche nel live alla batteria. Insomma, tutti loro hanno formato gli Oterriff, infatti il disco è uscito sotto il mio nome e sotto il nome loro. Perfetto. Patrizia, mi dispiace sinceramente, ma dobbiamo salutarci. Questa ora vi e mezza... Vi canto la ninna nana. Certo, certo, certo. Però noi ti strappiamo la promessa che ci ritorni. Sì, una, guarda, se non ho annoiato troppo quelli che ci ascoltavano, no, con io te cose. Ne strappo due, ti promesse. Okay. Una, facciamo i maschietti, come abbiamo detto la prossima volta. Va bene. L'altra invece la fai tutta tu. Io? Ci canti a cappella, quello che vuoi. Adesso. Esagero? Dai, vediamo, pensiamoci su. Sì, lascio carta bianca, fai tu quello che vuoi, ci vieni a cantare, facciamo una trasmissione tutta con la tua voce e con le tue parole, ovviamente, insomma. Io ne sono onorata, grazie. Ah, figurati, noi siamo onorati. Mi preparerò. Certo. Mi preparerò bene. Tanto io e te siamo in contatto spesso, sì, quindi insomma ci mettiamo d'accordo. Allora, Patrizia, io ti ringrazio di aver accettato l'invito, anche a nome di tutta Blu Radio Veneto, compreso Maurizio. Certo. Grazie a voi invece. È sempre un onore averti qui. Grazie. In bocca al lupo per la tournée e quindi magari tienimi informato come stanno andando le cose, noi intanto ci sentiamo, dicevo. E per quanto mi riguarda e per quanto riguarda Maurizio, tu ci sei domani sera? Sì, ci sono anche domani sera e anche giovedì. E giovedì c'è come anche me. Venerdì. Ah, vabbè. Io ci sono solo giovedì dalle 21 alle 22.30 con Jenny Gandolfi, una cantante che viene dalla provincia di Mantova. Di Mantova. Perché diceva... grande artista che the show must go on, giusto Patrizia? Certo. Deve essere sempre così. Patrizia, allora ci lasci con che cosa? Beh, intanto salutiamo anche Antonio che mi stavo dimenticando. Antonio. Ciao, grazie a voi. Grazie a te Antonio. Ci aspettiamo la prossima volta, magari ti porti il sax. Certo. Ieri possiamo fare un duo. Perché certo. Preparato la Gen Shiu. Va bene. È un'idea, vedi che c'è già l'idea che si sta sviluppando. Ok. Allora, ci lasci con? Dai, facciamo una piccola cosa, sì. Dai, una Dormi Putin, che si trova sempre nel disco, Il canto dell'anguana. E è appunto una ninna nanna per un bambino che però non vuole dormire. Ah, ecco, noi invece... Io me ne vado a dormire, ma guarda... Subito. Allora, saluti da tutta la gente che ti ha mandato i saluti, ovviamente i baci e gli abbracci, che sono stati veramente tanti, vi hanno scritto su Facebook. E buonanotte a tutti da Agostino. E da Maurizio Cazzavara. Buonanotte anche da me. Sarai oggi bel putin, sarà lì te so pian pianin, sta sotto la mia ala, finché il sonno cala. Così vestito di bianco amore, te trovare là in fondo, sermoia il primo sogno, un bel sogno d'incanto. Persone a notte sotto i rai della luna, nina non è luna, nina nana nenia, nina nana pena. Rock Wave, l'onda del rock.